Bene, questa era la sigla iniziale di questa trasmissione, che è Zardins Magnetics. Andremo avanti fino alle ore 21:30. Siamo in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Vi ricordo che questo programma viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli e Udine. Bene, andiamo allora così ora all'ascolto di questa band, una band italiana, per l'esattezza loro erano di Lucca in Toscana. Fecero un demo tape nel lontano 1983, esattamente 40 anni fa, una semplice cassetta, e recentemente, 3 anni fa, un'etichetta italiana, etichetta anche specializzata in tutto il circuito punk hardcore internazionale, ha così recuperato questa cassetta e fatta uscire su vinile, e noi ci ascoltiamo, ovviamente anche rimasterizzata la cassetta, insomma ha cercato di pulire i suoni di allora, e loro sono i War Dogs e It's Time to Fight era il titolo di questa loro demo tape. Sì, un saluto anche da parte mia. Allora, questa sera abbiamo pensato di iniziare con delle, tra virgolette, buone notizie, visto che i tempi sono quelli che sono, insomma, ci sono fuochi di fila da tutte le parti, e abbiamo pensato di iniziare appunto con notizie vitali. Allora, la prima, importante, che il compagno sardo Davide De Logu, dopo 14 anni di prigionia, dei quali 12, come dice lui, nel continente, quindi lontano dalla Sardegna, sparpagliato insomma in varie carceri italiane e quindi lontano anche dalle persone care e dai suoi contatti, è stato scarcerato e ora passerà un periodo agli arresti domiciliari. Non si sa di più, queste sono le notizie che ci arrivano, insomma, scarne, ma intanto è qualcosa. Poi io ci tenevo a dare notizie anche di una protesta che si è svolta nel carcere di Trapani 2 giorni fa, e praticamente un'intera sezione, la sezione Tirreno, che è una sezione dove sono reclusi quei detenuti che sono ritenuti aggressivi in quanto sono quelli che non si piegano, insomma, i rivoltosi, e appunto hanno inscenato questa protesta e hanno occupato un intero piano della sezione del carcere per un bel po' di ore. Quindi questo è un buon segno, perché quando ci si ribella è sempre un buon segno, e anche vuol dire che è possibile ribellarsi. Ci giunge poi in questi giorni ci è giunta un'altra notizia, però della quale poi non si è saputo più nulla, e cioè della fuga di un 18enne dal CPR di Gradisca di Sonzo. E purtroppo questa fuga non è durata molto, da quello che hanno detto nel Gazzettino regionale, poi però appunto la notizia è stata oscurata e sembra che il ragazzo sia stato riacciuffato e trasferito al CPR di Roma. E nel frattempo a Roma appunto c'è stata un presidio solidale davanti al CPR di Ponte Galeria, che è un CPR insomma praticamente che si è caratterizzato per diverse rivolte e anche diverse, l'ultima a settembre lo scorso mese insomma, ma anche diverse evasioni in massa, addirittura evasioni di 100 persone per volta, e infatti è particolarmente così militarizzato, è stato ulteriormente militarizzato dopo questi avvenimenti, e insomma le compagne e compagni di Roma ci hanno si fanno sapere appunto, e potete, se andate su Onda Rossa potete, c'è un'intervista a una compagna molto dettagliata, che a differenza di altri momenti nei quali la presenza insomma era abbastanza così circoscritta, diciamo, agli attivisti più, ai militanti più esperti e anche che hanno seguito tutta la vicenda dai CPT ai CIE, ai CPR appunto, questa volta invece c'è stata una grande partecipazione anche di persone molto giovani, insomma, che quindi si sono avvicinate a questa lotta, e c'è stata un grande scambio tra il fuori e il dentro relativamente proprio alla solidarietà ai palestinesi, specificamente ai palestinesi martoriati di Gaza, ma in generale, e quindi c'è stato anche questa insomma, giustamente la compagna diceva che molti prigionieri dei CPR ne sanno di questioni della Palestina molte volte molto più di noi, insomma, perché magari hanno provato molte cose sulla propria pelle. Un saluto anche da parte mia, ciao a tutte e a tutti. Stamattina, giovedì 19 ottobre, c'è stata davanti al Palazzo di Giustizia di Roma, ovviamente, il ricorso per l'attribuzione a Alfredo Cospito del regime di 41 bis, e quindi appunto è stata riesaminata la situazione alla luce anche del parere, insomma, della Cassazione in merito al prevalere delle come si chiamavano, delle lieve entità rispetto al alla recidiva, adesso non mi ricordo, sì, rispetto questo... al discorso dell'accusa di strage, ecco, per cui essere arrivati strage politica eccetera dall'ergastolo a, insomma, una pena, diciamo, di durata finita, sì, mostruosa, ma non fine pena mai, diciamo. Per cui niente, è emerso dalla stampa che la Direzione Nazionale dell'Antiterrorismo ha dato parere favorevole all'eventuale declassamento da 41 bis a altri regimi. Tutto questo va preso con le molle, ovviamente, comunque sì, e non è la prima volta. D'altra parte, il parere, la decisione finale, oltre che al sì, rispetto a questo Tribunale di Sorveglianza di Roma, ecco, tutto qua. E dopo i prossimi brani musicali metteremo una corrispondenza stamattina dal presidio davanti al Tribunale, che, per cui ringraziamo anche Radio Onda Rossa. Torniamo in voce come preannunciato e siamo in collegamento con un compagno che si trova appunto in questo momento al presidio. Ci senti? Pronto? Pronto? Ah sì, ok, noi ti sentiamo, tu ci senti bene? Ci senti bene? Io mi sento molto bassi, cercherò di ascoltare. Ci senti molto bassi, forse adesso dovrebbe essere più alto. Comunque, appunto, abbiamo. Ci senti più forte adesso? Sì, meglio. Oh, ok, ok. Abbiamo provato a fare un po' un excursus di quello che è stato l'anno passato, a partire dal 5 maggio, quando Alfredo Cospito è stato spostato in 41 bis. E insomma, abbiamo cercato un po' di ripercorrere le varie tappe. E ti volevo chiedere, appunto, intanto se volevi aggiungere qualcos'altro, ma soprattutto, insomma, come mai oggi si è lì, a praticamente a un anno di distanza dallo sciopero della fame, si è di nuovo in presidio? Sì, sì, buongiorno, oggi siamo di fronte al Tribunale di Sorveglianza di Roma, dove è l'unico deputato per le richieste rispetto al 41 bis, dove appunto si terrà un'udienza che riguarda il caso di Alfredo Cospito, è inerente quindi alla richiesta di revoca del 41 bis, in quanto la difesa ha fornito, diciamo, nuovi argomenti in merito alla questione. Ricordiamo che il 41 bis viene come si dice, non mi viene la parola, cioè, comunque la detenzione in 41 bis è per un periodo di tempo limitato e va revisionata. In questo periodo Alfredo dovrebbe, in questa serie, diciamo, di periodo, insomma, in questa area 41 bis dovrebbe durare circa 4 anni, sì. Tra 4 anni verrà rivista la sua permanenza in 41 bis, per adesso questa situazione permane. Questo lo dico anche perché la mobilitazione anche così forte che è stata fatta l'anno scorso non ha diciamo permesso al compagno di uscire dal 41 bis, lo dico perché c'è molta confusione in merito, e invece è stata revocata per adesso la condanna all'ergastolo ostativo, quindi diciamo questi erano i punti, la richiesta di revoca dell'ergastolo ostativo e la richiesta della non detenzione del 41 bis, su cui si muoveva la campagna in solidarietà allo sciopero della fame. Solo uno dei due obiettivi è stato raggiunto, permane la situazione del 41 bis per Alfredo e anche per altri compagni, altri tre compagni sono all'interno del 41 bis, e quindi per queste ragioni la campagna non è conclusa, ma continua e continuerà nel tempo fino a che non verrà raggiunto l'obiettivo di far uscire questo compagno dal regime dei 41 bis, di cui credo non sia bisogno, ci sia bisogno adesso di spiegare le specificità e la funzione di carcere di tortura e annientamento, certo, visto che uno dei meriti della campagna è stato insomma far conoscere questa situazione di cui si è tanto parlato, penso che sia nota a molti. Sì. Quindi oggi siamo qui per questo, volevo dire anche oggi allargheremo un po' il discorso. La prima cosa che vorrei dire è, visto che questa campagna che abbiamo mossa ha sempre avuto un carattere di solidarietà internazionale, oggi non possiamo che non dare un pensiero a tutti i prigionieri palestinesi trattenuti in Israele, a cui, da quello che ho letto, poi ci sono sempre notizie da verificare, Israele avrebbe tolto anche l'accesso al cibo per fare pressione in questi giorni rispetto all'attacco a Gaza, e ricordiamo anche che Israele è uno dei paesi che applica in maniera sistematica la detenzione amministrativa, quindi una detenzione che non richiede nessuna ragione per essere effettuata, nessuna spiegazione, ci sono migliaia di persone che stanno in prigione senza neppure sapere perché. Quindi vorremmo anche collegare appunto in questo slancio di solidarietà internazionale a tutti i prigionieri, tutti i rivoluzionari nel resto del mondo, in particolare oggi a quelli trattenuti dallo Stato israeliano. E poi, se posso aggiungere, penso che oggi sarebbe anche il caso di fare, pronto? Sì, ti sentiamo, certo. Di fare una riflessione sul fronte interno e fronte esterno, nel senso che la repressione che colpisce Alfredo, che fa parte diciamo di una repressione più complessiva che colpisce diciamo movimenti antagonisti, rivoluzionari in Italia, e abbiamo visto che come sia sempre più estesa di fronte anche a una... insomma mancanza sostanziale di conflitto, e si è arrivato ultimamente anche a arrivare insomma agli arresti per reati di opinione e di stampa, cosa che non si vedeva da molti anni, quindi c'è una continua estensione dello spettro repressivo. Vorremmo collegare questo aspetto al fronte esterno, cioè al fatto che l'Italia e l'Europa di fatto è impegnata indirettamente su due fronti di guerra, uno quello nella guerra russo-ucraina, l'altra in quello dell'attacco di Israele a Gaza, che è ovviamente completamente allineata ai dettami NATO statunitensi, quindi sostanzialmente sostiene entrambi questi fronti. L'esistenza di questa guerra non può che far aumentare la repressione a livello interno, non solo nei confronti dei militanti, degli antagonisti, ma in generale di tutti i proletari. Abbiamo visto oggi la chiusura delle frontiere, e questo riguarda tutta la massa di persone che fugge, che si sposta a causa della guerra, a causa dell'instabilità dei territori medio orientali e dall'Africa, che arriva alle frontiere d'Europa, molto spesso muore durante il tragitto, viene derubata, stuprata, sfruttata durante questo tragitto. Ecco, l'Italia chiude le frontiere con il pagamento del terrorismo, sostanzialmente per bloccare la massa di profughi che essa stessa ha contribuito a produrre tramite appunto le guerre che sostiene a spada tratta. Ecco, quindi questa repressione vediamo come aumenterà con il controllo elettronico, con il controllo delle nostre vite, aumenterà con i decreti come quello che Ivano che attacca proprio, criminalizza le fasce più giovani della popolazione, costringendo diciamo a una vita criminalizzata fin dalla più tenera età, con le retate nei quartieri che sono avvenute in vari quartieri proletari, sottoproletari d'Italia negli ultimi mesi. Insomma, volevo dire che la repressione non riguarda solamente alcuni compagni, alcuni rivoluzionari, ma si estende a macchia d'olio nella società, per garantire la tenuta di questo sistema di sfruttamento e di guerra. Sì, posso aggiungere, cioè volevo provare ad aggiungere un'altra cosa. La mobilitazione ha avuto tanti meriti e tanti caratteri inediti. Uno in particolare, proprio collegandomi a questa questione della repressione interna, è il fatto di aver scardinato da un lato, anche magari momentaneamente, insomma non saprei dire, però di aver scardinato un po' la cappa di cristallo che insomma avvolgeva tutta la cultura dell'antimafia, perché comunque anche questa mobilitazione comincia un po' da lì, a partire dal 5 maggio dell'anno scorso, però poi tante iniziative sono state fatte davanti, se non sbaglio, alla Direzione Nazionale Antiterrorismo e Antimafia, proprio perché era avvenuto questo passaggio della Direzione Nazionale Antimafia che diventa anche antiterrorismo, e questo appunto è stato uno degli aspetti più, cioè che la mobilitazione insomma si è fatta carico non ti volevo chiedere se volevi aggiungere anche tu un ragionamento su questo. Sì, prego. Ci sono diversi aspetti per cui si è voluto più volte segnalare il ruolo dell'antimafia e spingere verso una riflessione su questo e anche scalfire, diciamo, quell'aurea di sacralità laica che ha l'antimafia come così insomma paladino della giustizia. Ma ci sono tanti aspetti, a parte il primo, il principale è che la giustizia sociale e la giustizia, diciamo, dei tribunali non coincidono, quindi chiaramente i problemi legati alla mafia non saranno mai risolti finché non verranno affrontate le questioni sociali che le sottendono, e non è pensabile minimamente che possano essere risolti tramite la repressione. Quindi i sistemi della mafia e dell'antimafia crescono e vivono in simbiosi, e sostanzialmente sono due sistemi di potere che si autoalimentano a vicenda. E questo è fondamentale, va compreso. Sì, sì. In più va compreso il ruolo che l'antimafia ha assunto, un ruolo di antimafia e antiterrorismo, quindi di fatto l'antimafia si occupa di repressione politica e sociale. Questo deve essere insomma chiaro, è stato chiarito penso con questa campagna, e anche va fatto notare, andrebbe insomma fatto un ragionamento sui metodi che vengono utilizzati dall'antimafia, che può agire in tutta libertà, che può agire al di fuori delle deroghe, che può agire al di fuori di ogni controllo nell'attuare la repressione, e poi di come questi metodi poi vengano, metodi spesso insomma molto discutibili, poi vengano trasportati nell'ambito del controllo sociale e politico, un aspetto che andrebbe approfondito a mio avviso. Certo. Ok, l'ultima cosa che ti chiedo, se hai ancora qualche minuto, insomma, di raccontarci un po' come sta andando la piazza, quanto è partecipata, che discorsi si stanno facendo. Sentiamo un po'. La piazza sì, con un po' di ritardo si è riempita. Siamo qui davanti, quindi siamo in una zona centrale. Il nostro obiettivo è spesso di farci sentire, di dare un po' fastidio a queste persone che vivono così arroccate in questi palazzi, fare sapere comunque che c'è qualcuno fuori che si interessa di queste questioni, che non tutto viene risolto così all'interno di queste stanze fuori da qualsiasi sguardo, e fare presente che la mobilitazione non è finita, che l'attenzione rispetto al caso di Alfredo Cospito, rispetto alla questione del 41 bis per tutti i detenuti non è attenuata ma continua. E quindi si tratta di tenere, diciamo, il filo rosso della mobilitazione, portarla avanti, e questa mobilitazione avrà tutte le sue fasi in continuità anche nei prossimi anni, finché non verranno risolte le questioni che ci si propone, certo, di risolvere. Quindi la chiusura del 41 bis e fare uscire, diciamo, i compagni Alfredo da questo regime. Quindi noi siamo qui e ci facciamo sentire, così insomma chi dentro sa che il nostro compagno non è dimenticato, la questione del 41 bis non è caduta nell'oblio dopo la mobilitazione dell'anno scorso, ma tutto continua. Ti ringrazio, allora insomma magari rimaniamo aggiornati, rimaniamo in collegamento se ci sono aggiornamenti. Grazie. Ti ringrazio per la disponibilità. Ciao. Grazie. Buona giornata, ciao. Bible says it's going to wax worse and worse. And when you go into these big cities and there are streets that you can't walk down without being thumped, you know it's getting bad. When homosexuality is in open view and not hidden anymore, you know it's getting bad. When witchcraft and communism is everywhere, you know it's getting bad. Bene, volevo solo dire che ci stiamo ascoltando in sottofondo questa band inglese Fallout, omonimi della stessa band italiana, proprio stesso periodo, primissimi anni 80. Questo è stato, era il loro LP Home Kill, scusate, Home Killed Men. Bene. E mentre volevo anche ricordare che prima all'inizio della trasmissione abbiamo ascoltato War Dogs, band appunto anch'essa dell'83 di Lucca, grazie alla FOAD, etichetta italiana che insomma rimasterizza tante di queste band dell'epoca, o comunque va a cercare a livello internazionale diciamo queste chicche che sarebbero cioè impossibile da recuperare o ascoltare. Comunque rimaniamo all'ascolto dei Fallout. Alright. Sì, allora mi ricollego a quanto, così faccio un collegamento, diciamo, con quanto diceva il compagno dal presidio romano per Alfredo sul discorso della guerra interna come, diciamo, riflesso ma anche nutrimento della guerra esterna, insomma, e della relazione comunque tra guerra interna e stato di guerra, diciamo, combattuta, insomma, guerreggiata, e facendo appunto questo collegamento da un approfondimento di Antonio Mazzeo, e se andate a dare un occhio al suo blog, insomma, ci sono tantissimi approfondimenti importanti sullo stato del militarismo in Italia, e specificamente appunto lui parla di questa proiezione sempre più aggressiva, armata e nucleare dell'Italia nei conflitti globali. Ne parla parlando di una mega esercitazione NATO che è iniziata il 16 ottobre, andrà avanti fino al 26 di ottobre, e che proprio ha come base Aviano, e si tratta di una esercitazione per addestrare le aeronautiche militari dei paesi NATO all'impiego di armi nucleari. Questa mega esercitazione coinvolge un casino di regioni italiane, insomma, parlavano di un 2/3 dell'Italia, comunque l'Italia centro-settentrionale quasi interamente, e poi chiaramente Sicilia e Sardegna, che sono sempre massacrate in maniera particolare dal militarismo, e anche le coste della Croazia. E oltre alla base di Aviano c'è anche la base di Ghedi, che è la seconda base dove sono dislocate le testate nucleari. La prima ce l'abbiamo qua, la prima base come, diciamo, quantità di testate nucleari è quella di Aviano. E appunto ci dice Antonio Mazzeo che questa non è solo un'esercitazione, ma ha la funzione politica specifica di ricordare a tutti i nemici, che in questo momento sono della NATO, che in questo momento sono Cina, Russia e il terrorismo internazionale, questo fantomatico terrorismo internazionale, che la minaccia nucleare è sempre presente. Gli aerei che vengono utilizzati sono gli F-16 e poi i nuovissimi F-35, che sono quelli proprio di nuovo modello per le testate nucleari. E un'altra cosa importante che riguarda invece la base di Sigonella in Sicilia, praticamente proprio dalla base di Sigonella in Sicilia partono i grandi velivoli da trasporto di armi che servono per il bombardamento della striscia di Gaza da parte di Israele. Praticamente questi già Sigonella aveva un ruolo strategico già nella guerra dello Yom Kippur, quindi nel 50 anni fa, per il rifornimento di uomini, mezzi, attrezzature militari, eccetera, a Israele. E da quando appunto la NATO ha annunciato dopo il 7 ottobre di voler sostenere militarmente la controffensiva di Israele con i bombardamenti sulla popolazione civile a Gaza, questi grandi velivoli arrivano praticamente dagli USA in Germania a Ramstein, e poi atterrano a Sigonella, dove vengono caricati, insomma, di ulteriori armamenti, e poi arrivano in questa base strategica israeliana che si chiama Neged, che praticamente è una base in mezzo al deserto, una roba veneristica. Ecco, quindi chiaramente questa cosa del super impegno militare attivo dell'Italia, non per finta, sul piano internazionale, insomma, è evidente. Ancora una parola su questa roba qua del militarismo. Allora, leggendo dal Messaggero Veneto, succede anche questo in regione qua da noi, a Pordenone, cioè in questo liceo, un liceo che si chiama Leopardi Maiorana, 40 studenti hanno fatto praticamente delle prove di guerra per un giorno, e con l'intervento della Croce Rossa, perché è la Croce Rossa che promuove queste robe. Praticamente si tratta di un gioco di ruolo che si chiama Raid Cross, e allora questo gioco di ruolo viene spacciato, cioè viene propagandato come un gioco sui diritti umani internazionali, quindi un gioco per sensibilizzare gli studenti a questa questione, insomma, degli aiuti internazionali. E praticamente si tratta di una prova virtuale di come si vive in un contesto di guerra e sotto l'attacco di bombardamenti, una simulazione. Allora, questo gioco è ideato per ragazzi tra i 12 e i 18 anni e nel corso di questa attività praticamente i ragazzi interpretano vari ruoli: il ruolo di prigioniero, di civile, di soldato, di operatore umanitario, e quindi si giocano alla guerra, insomma, all'interno della scuola. E la mistificazione di dire che questi sono giochi per educare all'umanitarismo viene dalla foto così molto esplicita che c'è sul Messaggero Veneto, dove ci sono dei ragazzi inginocchiati a terra con la testa bassa e altri ragazzi che puntano loro una pistola alla testa. Bene, questi che stiamo ascoltando sono i Golp, band di beat di Milano. Questo è il loro album uscito nel 2021 che si chiama La colpa è solo tua. Golp. Ecco, ancora in voce per sempre proseguire il programma di programma anche di interventi di questa puntata di Zardins Magnetics. A proposito di guerra, non serve spingere lo sguardo chissà dove, e ci sono i notiziari quotidianamente ci ricordano la situazione appunto nella striscia di Gaza, oltre che nella guerra in Ucraina. Per questa sera noi scegliamo di nuovo di fare un passo, diciamo, indietro, insomma, o insomma a lato o in alto, non so, faremo un così delle brevi letture da un testo scritto più di 50 anni fa da Franco Fortini. Franco Fortini nasce nel 1917 e muore nel 1994. Scrittore, poeta, saggista, traduttore, davvero di interessi sconfinati, insomma, dall'arte, l'attenzione per insomma tutto quello che succedeva nella sua epoca. E, ma così facciamo brevemente anche un profilo un po' biografico di questo intellettuale italiano che nasce insomma, a Firenze nel 1917, essendo di padre ebreo deve subire le leggi razziali, insomma, o quantomeno segue uno ostracismo, subisce un ostracismo in seguito alla promulgazione delle leggi razziali contro gli italiani ebrei del 38, e riesce a laurearsi in legge come il padre, poi anche in lettere, storia dell'arte. La guerra, insomma, viene durante la guerra viene fa il servizio militare come ufficiale nell'esercito. All'8 settembre riesce a insomma raggiungere la Val d'Ossola, cui poi parteciperà, nel senso che parteciperà nel 44, l'anno successivo, alla esperienza della Repubblica Partigiana della Val d'Ossola, in seguito appunto alla rappresaglia nazifascista si rifugia in Svizzera, in particolare a Zurigo, conosce anche lì tutta una serie di altri intellettuali e altri, oltre che intellettuali, anche semplici altri come lui, insomma, rifugiati, scampati ai campi di sterminio nazisti. Dopo la guerra partecipa a tutta una serie di riviste, esperienze, insomma, di svolge attività di traduzione e critico, in particolare lavora anche all'Olivetti. Olivetti era come lui, insomma, era anche lui ebreo, e non c'entra, ma per dare un contesto, lavora come nel settore pubblicitario dell'Olivetti. Poi però a un certo punto, a causa di dissidi dovuti a anche proteste sindacali, viene spostato da Ivrea a Milano. In seguito appunto viene, insomma, partecipa, cioè oltre che volevo dire che si iscrive al Partito Socialista, e tra l'altro con altri, tra i quali Carlo Cassola e altri, si compie un viaggio in Cina nel 1955, partecipa anche al in seguito a dissapori anche col Partito Socialista, lo abbandona e partecipa all'esperienza dei Quaderni Rossi. Nel 56 si schiera ovviamente contro il PC e comincia a avere difficoltà anche a trovare un impiego alle Einaudi, cioè nel senso che prima, essendo anche avendo stretto amicizia con Vittorini, insomma, si occupava di varie questioni appunto editoriali, insomma dava i pareri sulle pubblicazioni in seguito all'invasione dell'Unione Sovietica in Ungheria. Non riesce più, cioè, non gli viene più dato lavoro e quindi ritorna a insegnare, fa negli anni 60 è docente appunto in vari istituti insomma, in Lombardia, in provincia di Milano, poi a Milano finalmente. Sempre negli anni 60 stringe un rapporto di amicizia con Pasolini. Ecco, si arriva finalmente al 1967 con la guerra cosiddetta dei sei giorni di Israele contro gli stati arabi confinanti, dove appunto è per lui occasione di questo pamphlet che si chiama I cani del Sinai, che sì, adesso qui andremo a leggere semplicemente degli estratti. There is nothing here I want, so I take my chances on the open road. I consigli comunali delle Apuane, dove 23 anni fa Reder e i suoi ammazzarono centinaia di persone, si pronunciano contro la richiesta di grazia dopo il comune di Marzabotto. Ieri ha votato il consiglio comunale di Carrara all'unanimità, meno uno, un avvocato democristiano. Non so come costui abbia motivato il suo voto. Fosse una motivazione politica, forse potrei anche approvarla. Sarà invece, come mi è occorso di leggerne, una motivazione religiosa o morale che maschera una scelta politica inconfessabile. Cerimonie come queste, comprensibili per i superstiti, ma da un più serio punto di vista, peggio che stoltezze, ipocrisie, e peggio che ipocrisie, aiuti al peggio. C'è stato un modo molto reale di dimenticare quegli uccisi, il modo tenuto dalle classi dirigenti italiane nei primi 10 anni del dopoguerra. Oggi si preferisce parlare delle stragi naziste per non guardare la verità di Indonesia, Vietnam, America Latina, Congo. Ma no, sto ancora sbagliando. Ancora una volta, ma vedo di ragionare nei vecchi, ormai falsi termini. Si parla del Vietnam e come? Se ne parla come dei crimini nazisti, di questi come della guerra israeliana e della guerra israeliana come di una carestia in India. Al fondo c'è una sola dura feroce notizia. Voi non siete dove accade quel che decide del vostro destino. Voi non avete destino. Voi non avete e non siete. In cambio della realtà vi è stata data un'apparenza perfetta, una vita ben imitata, così ben distratti dalla vostra morte da godere una sorta di immortalità. La recitazione della vita non avrà mai fine. Felici. Oh, Rod Levin, giornalista del Daily Mail. Non tollero di essere chiamato antisemita solo perché su certi punti non sono d'accordo con Israele e non permetto che mi si accomuni ai razzisti solo perché rifiuto a Israele una solidarietà di razza a cui non credo. La notizia giornalistica che mi riporta queste frasi informa che una sola su quattro delle lettere ricevute dalla redazione ha approvato il Levin. C'è poco da stare allegri. Ma parole come quelle hanno un senso solo quando chi le pronuncia si colloca per professione o funzione nei termini di una solidarietà civile. Ognuno di noi, anche se non lo vuole, lo è di fatto e non tollera, non permette il sopruso e la violenza, ricorre alla tutela di quelle stesse leggi e autorità che in altro momento contesta. Ma in materia di scelte e di giudizi politici, per chi elegga a discrimine il conflitto di classe su scala mondiale, è ridicolo parlare di non tollero e di non permetto. Chissà che il conflitto di classe è l'ultimo dei conflitti visibili, perché è il primo per importanza, è fuori di ogni diritto naturale, è una delle cose ignobili del mondo, delle cose sprezzate, delle cose che non sono, e deve in un certo senso tollerare e permettere le false accuse. Mi chiedo, anzi, se quella che è stata chiamata vocazione alla sconfitta di tanti movimenti rivoluzionari non si accompagni sempre a una coscienza della dialettica di comunicabilità e incomunicabilità, di persuadibilità e impersuadibilità, di comunanza e di estraneità, simboleggiata dal condannato a morte che fino all'ultimo parla ai carnefici, dove però prevale alla fine, nel punto alto della curva, la rinuncia alla comunicazione presente in nome di una possibile comunicazione a venire. È l'affermazione di una verità di cui non si può dare testimonianza se non morti, secondo la formula di un antico eretico. Come mi sarebbe possibile allora non tollerare e non permettere l'accusa di antisemitismo o di razzismo? Credo sapere, come ha insegnato Sartre in un libro vecchio di 20 anni, che il tasso di antisemitismo, termine che va messo fra virgolette per rivelarne l'ambiguità, presente in chi sia o sia stato considerato ebreo, non è che l'avversione autodistruttiva, l'oggettivazione morbosa della cattiva coscienza e del senso di colpa inevitabile non già nel borghese moderno, ma in quella borghesia storica che, come Marx giovane sapeva, crea l'ebreo, ne fa il proprio doppio, il proprio tipo perfetto. Per quanto è del razzismo, non so forse di partecipare ad una varietà di razzismi, di negare di fatto il riconoscimento di una piena identità umana a date categorie di esseri umani o di privilegiarne altri sul fondamento di determinazioni biologiche, le donne ad esempio, o culturali, i cosiddetti lettori colti, o storiche, i borghesi, i tedeschi, dalle quali però mi ritengo, cioè mi fingo, esente e libera, è libero? Ma basta, non bisogna essere troppo generosi con certi avversari, contro chi ha senza disgusto tollerato di ascoltare o di leggere dette e scritte per gli arabi buona parte delle argomentazioni che 30 anni or sono la stampa hitleriana formulava contro lo Jude e le ha rese, se possibile, anche più ripugnanti con uno smalto pedagogico democratico, perché per il nazista l'ebreo era irrecuperabile, mentre l'arabo straccione, gesticolante, analfabeta, incapace di usare un'arma moderna, eccetera, può progredire se istruito al rispetto dei valori occidentali, contro coloro non si sarà mai abbastanza antisemiti e razzisti se questi aggettivi sono sinonimi di nemico. No, niente, prima di lasciare un po' di musica, volevo solo concludere. questa lettura, dicendo che c'è, sì, è un po' una così una, un intervento un po' scolastico che ho fatto stasera, ma nel senso che le, si trovano questi importanti, queste importanti considerazioni lette da Fortini stesso in un film incredibile di Jean-Marie Straub e Daniel Huillet del 1976 che si intitolava Fortini Cani. E ripeto, il libro di Fortini è invece titolato I Cani del Sinai. L'abbiamo letto questa sera. Sfumo questo brano, ma comunque ne ascolteremo un terzo, anche perché sono tre i brani di questa band da questa diciamo uscita promozionale datata 13 ottobre 2023. Credo più aggiornati di così non possiamo essere in questa trasmissione, anzi credo sia un record. E, è una band californiana e è dal 2018 che fanno uscire proprio delle demo tape, proprio le vecchie cassette, e ora stanno per far uscire appunto una ulteriore cassetta. Questi sono i tre brani promozionali e loro sono i Sissy Fit. Yeah. Sì, e continuiamo a parlare di Palestina. E, allora, dopo Fortini, appunto, diamo voce, diciamo, a questo storico, Ilan Pappe, che è uno storico ebreo, diciamo, all'Università di Exeter, e è stato anche docente ad Haifa, all'Università di Haifa, e cioè uno storico proprio della storia dello Stato di Israele dalla sua fondazione nel 48, ed è uno dei non rari, in realtà, ebrei antisionisti e anche estremamente critici, per non dire, insomma, radicalmente critici verso lo Stato di Israele, e appunto solidale invece con la lotta dei palestinesi. E allora lui, Ilan Pappe, lui scriveva: la legittimità di Israele, anzi la sua stessa vitalità, poggia su due pilastri principali. Il primo è il pilastro materiale, che comprende la sua forza militare, le sue capacità high-tech e un solido sistema economico. Questi fattori consentono allo Stato di costruire una solida rete di alleanze con i paesi che desiderano beneficiare di ciò che Israele ha da offrire: armi, sicurezza, software di spionaggio, conoscenze ad alta tecnologia e sistemi modernizzati di produzione agricola. In cambio Israele non chiede solo denaro, ma anche sostegno contro la sua immagine internazionale erosa. In secondo luogo, il pilastro morale. Questo aspetto era particolarmente importante agli inizi del progetto sionista e della creazione dello Stato. Israele ha venduto al mondo una duplice narrazione: uno, che la creazione di Israele era l'unica panacea per l'antisemitismo, e due, che Israele era stato costruito in un luogo che religiosamente e culturalmente apparteneva al popolo ebraico. Però, appunto, ci dice Pappé, questo diciamo, questa immagine, questo pilastro morale scricchiola sempre di più. E proprio in questi giorni lui ha scritto una sorta di articolo lettera, diciamo, rivolto proprio a lui dice: miei amici israeliani, ecco perché sostengo il popolo palestinese. Bon, vi leggo qualche pezzo. È difficile mantenere la propria bussola morale quando la società a cui si appartiene, sia i leader che i media, si arroga il primato morale e si aspetta che si condivida con loro la stessa giusta furia con cui hanno reagito agli eventi dello scorso sabato 7 ottobre. C'è solo un modo per resistere alla tentazione di unirsi a loro. Se a un certo punto della vostra vita, anche come cittadini ebrei di Israele, avete compreso la natura coloniale del sionismo e siete rimasti inorriditi dalle sue politiche contro gli indigeni della Palestina, se avete avuto questa consapevolezza, allora non vacillerete, anche se i messaggi velenosi dipingono i palestinesi come animali o animali umani. Queste stesse persone insistono nel descrivere ciò che è avvenuto sabato scorso come un olocausto, abusando così della memoria di una grande tragedia. Questi sentimenti vengono trasmessi giorno e notte dai media e dai politici israeliani. È questa bussola morale che ha portato me e altri nella nostra società a stare al fianco del popolo palestinese in ogni modo possibile, e che ci permette allo stesso tempo di ammirare il coraggio dei combattenti palestinesi che hanno conquistato una dozzina di basi militari, superando il più forte esercito del Medio Oriente. Inoltre, persone come me non possono fare a meno di interrogarsi sul valore morale o strategico di alcune delle azioni che hanno accompagnato questa operazione. Poiché abbiamo sempre sostenuto la decolonizzazione della Palestina, sapevamo che quanto più a lungo fosse continuata l'oppressione israeliana, tanto meno la lotta di liberazione sarebbe stata sterile. Cioè sterile nel senso come una sala sterile, insomma, senza robe sporche. Come è accaduto in ogni giusta lotta di liberazione del passato, ovunque nel mondo. Questo non significa che non si debba tenere d'occhio il quadro generale, nemmeno per un minuto. Il quadro è quello di un popolo colonizzato che lotta per la sopravvivenza in un momento in cui i suoi oppressori hanno eletto un governo deciso ad accelerare la distruzione, anzi l'eliminazione del popolo palestinese, o addirittura della sua stessa pretesa di essere un popolo. E continua il Lampapè: Hamas doveva agire in fretta. È difficile dare voce a queste controargomentazioni, perché i media e i politici occidentali hanno seguito il discorso e la narrazione israeliana, per quanto problematica. Mi chiedo quanti di coloro che hanno deciso di vestire il Palazzo del Parlamento di Londra e la Torre Eiffel di Parigi, e se per questo anche il Palazzo della Regione a Trieste, con i colori della bandiera israeliana, si rendano veramente conto di come questo gesto, apparentemente simbolico, venga accolto in Israele. Persino i sionisti liberali con un minimo di decenza hanno letto questo gesto come un'assoluzione totale di tutti i crimini che gli israeliani hanno commesso contro il popolo palestinese a partire dal 1948, e quindi come una carta bianca per continuare il genocidio che Israele sta ora perpetrando contro la popolazione di Gaza. Fortunatamente ci sono state anche reazioni diverse agli eventi che si sono svolti negli ultimi giorni. Come in passato, ampi settori della società civile occidentale non si lasciano facilmente ingannare da questa ipocrisia, già in bella mostra nel caso dell'Ucraina. Molti sanno che dal giugno del 1967 un milione di palestinesi è stato imprigionato almeno una volta nella vita. E con l'imprigionamento arrivano anche gli abusi, le torture e la detenzione permanente, senza processo. Queste stesse persone conoscono anche l'orribile realtà che Israele ha creato nella striscia di Gaza quando ha sigillato la regione, imponendo un assedio ermetico a partire dal 2007, accompagnato dall'incessante uccisione di bambini nella Cisgiordania occupata. Questa violenza non è un fenomeno nuovo, poiché è il volto permanente del sionismo fino dalla fondazione di Israele nel 1948. Proprio grazie a questa società civile, cari amici israeliani, il vostro governo e i vostri media saranno alla fine smentiti, perché non potranno rivendicare il ruolo di vittime, ricevere un sostegno incondizionato e farla franca con i loro crimini. Vabbè, poi l'articolo continua, è lungo, molto lungo, insomma, comunque lui, poi questo storico, Ilan Pappé, ha questa... Prima si diceva, lui parla di questa Stato di Israele di fantasia, di questo Israele non Stato, Israele di fantasia, fondato appunto su dei miti, diciamo, che sono utili in senso anche proprio mercantile, diciamo, al mondo occidentale, per ciò che Israele fornisce al mondo occidentale in termini di mezzi di dominio, diciamo, e che il mondo occidentale gli restituisce in termini simbolici. Però invece lui, vabbè, su questo poi sostiene che in realtà sostiene una sorta di, ecco, aspetta che vi leggo, lui dice: è proprio dal processo implosivo di Israele che inizia a delinearsi un momento della storia di rara opportunità e per riflesso la ripresa della lotta palestinese, e dice letteralmente: la futura Palestina desionistizzata può apparire ora come una fantasia, ma a differenza dell'Israele di fantasia ha migliori possibilità di galvanizzare a livello locale, regionale e globale ogni persona con un minimo di decenza. E quindi comunque porta avanti, nonostante tutto quello che sta succedendo, insomma, lui porta avanti questo discorso della possibilità di una Palestina appunto desionestizzata e antirazzista, dove c'è spazio per tutti. We'll be right back. Sì, non dimentichi, cioè, mi stavo dimenticando, nel senso che vedo che il tempo sta scorrendo, ma allora, prima di concludere, così con i contatti, eccetera, volevo ricordare una manifestazione che ci sarà a Trieste questo sabato, sabato 21, pomeriggio, alle ore 15. Il concentramento è a Foro Ulpiano, e allora è una manifestazione per non dimenticare la lotta No Green Pass al porto, e non solo quella, dell'ottobre 2021, ed è anche un'occasione comunque per manifestare solidarietà al popolo palestinese. Allora, per il coordinamento No Green Pass e oltre di Trieste ha elaborato, per così, in occasione, insomma, di questa loro iniziativa, una cronologia dell'attacco alla libertà e alla vita in Italia con l'emergenzialismo sanitario, che si intitola Per non dimenticare. Allora, io vi consiglio di leggerla, perché insomma, riassume in breve ciò che abbiamo vissuto, diciamo, in questi 3 anni, che magari poi, quando le cose passano, anche si stempera un po' la percezione che si aveva. Invece ricordarsi tutte le tappe è significativo. Loro l'hanno fatto adesso perché il 15 ottobre del 2021 il Green Pass è stato reso obbligatorio per entrare in qualsiasi posto di lavoro. Quindi sono già passati 2 anni da quel momento lì. E vabbè, insomma, in questo vademecum, chiamiamolo così, ricordano tutte le fasi politiche, insomma, della gestione autoritaria del Covid-19. E sì, questo volantone, insomma, finisce dicendo, appunto, non dimenticare, restare consapevoli e vigili, continuare a lottare. E niente, importante, noi metteremo il link al documento nel blog, così chi vuole, insomma, può andare a leggerselo, perché è molto lungo, e altrimenti, insomma, lo potete leggere se partecipate alla manifestazione di sabato 21 a Trieste. There's waiting in this state. Love realized too late. There's only so much left inside. Only so much space to hide. could kill you with a touch. I never hate this much. 1,000 colors every day, but all I see is gray. My history is plagiarized. I feel desensitized. Maybe one more shot of reason will rip through this disguise. Don't try to understand me. Your logic won't command me. Don't try to read between the lines. I told that man just what I thought of it, so I'm right back where I am, tied to this bed, subconsciously restrained, and now I wish I hadn't said what I said to both of my parents, cause I made my mother cry. Cause I can be a better man. Be a better man. Be a better. I'm floating in a frozen sea. I watch the moment break, giving away the shades of brown. I see those colors all around, but what's left, no one here but me. And my autumn memory, and in my heart it's just as close. Bene, teniamo in sottofondo ancora questa band, band statunitense dalla California, esattamente da Santa Cruz, band che si era formata alla fine degli anni 80, e loro sono i Good Riddance, e questo è il loro album datato 1995 che si intitola For God and Country. Bene, siamo giunti al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dalle ore 20 alle 21.30 qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine. Ricordo che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli e Trieste. Come sempre vi lasciamo i nostri contatti se volete scriverci attraverso la posta elettronica intestando a liberetutti@autistiche.org oppure scrivendo ad Associazione Senza Sbarre, Casella Postale 129, Trieste Centro 34121, ovviamente per quel che riguarda in forma cartacea. E ricordo che questa trasmissione, ma anche quella delle volte scorse e dei giovedì scorsi, potete andare a riascoltare in rete smanettando, troverete zardinsmagnetixradio.noblogs.org. Bene, siamo proprio giunti al termine, salutiamo tutti, anche chi ci può riascoltare domani in rete su Radiazione Web Radio, sì, che è una web radio Radiazione, dalle ore 17. Ciao a tutti e vi lascio con un ultimo brano, loro sono gli spagnoli Scappé, zona di Madrid, e questo è il loro brano che si intitola Intifada. E adesso ascoltiamo Scappé, Intifada.